Thank you. 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月，接下来和你一起分享 安德烈·博切利的专辑《心醉神迷》中的音乐，歌曲分别是《如此伟大的爱》、《恋爱中的战士》、《我想如此生活》、《桑达露西亚》、《登山缆车》、《因为》、《你从海边来》、《格拉纳达》、《那正是五月》、《马来卡莱》、而你依然沉睡，勿忘我，普尔钦内拉。 Sento sul viso il tuo respiro, stringiti forte a me, non chiederti perché. La sera scende già, la notte impazzirò.I tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così. Tanto caldo dentro e fuori intornoSilenzio breve poi, la macchia tua s'accende un'altra volta. Un amore così grande, un amore così.Silenzio breve poi, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La sera scende già questo core, a te volo co pensiero, niente voglio, niente spero, ca te ne te sembra fianco a me. Si sicuro che st'amore, come so sicuro te. E o prima l'urdemo sarai per me. Quanta notte non te veco, non te senti in tasti braccia, non te va su questa faccia, non ta stregne forte in braccio a me. Ma scetanna ma sti suona, ma fai chiagnere per te. Oi, vita, oi, vita mia, oi, cuore di Cristo cuore, sei stato primo amore, e o prima l'urdevo sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso da te sola, non pensiero che consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Io prima l'urdevo sarai per me. Ai vita mia, ho il cuore, questo cuore, sei stato il primo amore. Io prima l'urdevo sarai per me. Felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano. Sei tu la vita,

con questo zeffiro così soave, ma come bello star sulla nave, con questo zeffiro così soave, oh come bello star sulla nave. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, goppa, iambe, iambe. funiculi funicula. Funiculi funicula, funiculi funicula. Funiculi funicula. Because you come to me with not safe love, and hold my hand and lift mine eyes above, a wider world of hope and joy I see. Because you speak to me in accents sweet, I find the roses wake here on my feet, and I am left through tears and joy to thee. Del cielo. sei brillante mia stella ed in terra divina beltà. Sueño rebelde gitana cubierta de flores y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de amor grana. Oh, De sangre y de sol. De rosas de suave fragancia Virgen morena, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. Adorava de rosa accende basse Era de maggio io no, non me ne scordo La canzone cantava molto in voce Più tempo passa e più me la ricordo Fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cuore, cuore, cuore mio lontano mai e tu me lassi io con dolore chissà quando tornerà Gioia mia, mi è già stata C'è sta una finestra. Chi dice che le stelle sono lucente non sa questo che cato tiene in fronte. Stido e stelle di saggio sulla mente che in talo cuore ne tengo di ponte. Chi dice che le stelle son lucente? Scetate caroli per l'aria e doce quando mai è tanto tempo già aspettate accompagnare i suoni con la voce stasera la chitarra già portata. Cercate caroli che l'aria è dolce. E voi mi tenerezza mia dormite ancora. La cedi sonno stanchi di cantare e affrittati v'aspettano qua fora sopra su balconetto sopposati e aspettano qua ne cava faccia. Dormiti chioi, can menzotti di dintra sta vanetta, ci sogno puro io, caspetto a voi, i viniri sa faccia così bella, passo caffè. Aspetto pure quando non va facciati. Li ciuri senza voi non fanno stare su tutti i culi testi a pinnuloni, ognuno di te non vuole sbucciare, si prima non si grappi su balconi dintra l'ubo. Sta vanetta ci sogno puro io c'aspetto a voi che vidi rissa faccia così bella passo caffè. E aspetto pure quando non va facciati. Cercando primavera di ti scordar di me. La vita mia legata a te, io t'amo sempre più. Nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me. La vita mia legata a te. C'è sempre unito nel mio cor per te. Caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto, devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare. Pulacenella, pulacenella, popo la po, se purta di qua la tella, na resella, na riola. E mosta tarantella, nisciuna va a cantà, gemo pulacenella, e chiamma la trupe. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che stu botta botta, questo mondo che da pazzia, e chi me volta qua, e chi me volta là, e questa vita fa, zucchete in su, zucchete in su. È durmuta una muratella come si bella napolena, tiene sempre una bocchella, tiene fuoco e verità. Tu sei una figliulella, casa da marità, insieme a Pulacenella, e chiamala figlia. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che scuotta botta, na la gaga gira, e stu mondo che la pazzia. E chi me volta qua, e chi me volta là, e che sta vita fa, zucchete in su, zucchete in su. Zucchete in su, 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。